ya in zaka so dan uwanka so shi tsakaninka da mai sama Allah ko rasulullah so kana nake yi da kide na nuna damuwa dan san kyacin cikin zuciyai da daiwa daure ki tashi tashi kana magauta si sowa na sani jira suke da miyo batawa taso taso kanki yau dagawa sassauta dole ne a ce mana san barka girma kuma kai ne girma lallaba abika ada ce da girma yo dai yo tsantsar kirani kin ga masoyin da muke buni manzo ta hasan barka